Morbide dei fior, più dei grappoli maturi sotto il sole, i tuoi baci come il vino fanno dire al mio cuore, vino, vino, vino, vino e baci ancora. Quando soli ce ne andiamo a passeggiare, sotto un albero restiamo un po' a sognare, i tuoi baci così dolci fanno cantare al mio cuore. Vino, vino, vino, vino e baci ancora. Bella, bella, bella, al mondo nessuno c'è. Bella, bella, bella, dolcissima come te. Le tue labbra son più morbide dei fiori, più dei grappoli maturi sotto il sole. Son felice innamorato mentre sogna il mio cuore. Vino, vino, vino, vino e bacia ancora. Amore, amore. Vino, vino, vino, vino e bacia ancora. Amore, amore. Vino, vino, vino, vino e bacia ancora. Come il vino fanno dire al mio cuore, vino, vino, vino, vino e bacia ancora. Vino, vino, vino, vino, i tuoi baci così dolci fanno cantare al mio cuore, vino, vino, vino, vino e bacia ancora. Bella, bella, bella, al mondo nessuno c'è. Bella, bella, bella, dolcissima come te. Le tue labbra son più morbide dei fiori, più dei grappoli maturi sotto il sole. Son felice innamorato mentre sogna il mio cuore. Vino, vino, vino, vino e baci ancora. Amore, amore. Vino, vino, vino, vino e baci ancora. Amore, amore. Vino, vino, vino, vino e baci ancora. Amore, amore. Vino, vino, vino, vino e baci ancora. Amore, amore. Vino, vino, vino, vino e baci ancora. Amore, amore.